La teoria delle stringhe è nata... È democratico perché... Per OGM si intende... L'effetto placebo... Da Bacon. È rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Martedì 1 dicembre 2009 e benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. Come avrete capito, questa è una puntata del tutto speciale. Parleremo di un carnevale, il carnevale della fisica. E ne parleremo con Claudio Pasqua di Gravità Zero. Buongiorno Claudio. Buongiorno a te. Claudio, prima di tutto, prima di introdurre questo carnevale, spieghiamo un attimo ai nostri radioascoltatori nelle 100 parole iniziali. Che cos'è un carnevale della fisica o un carnevale della matematica? Allora, avrete sicuramente sentito parlare dei festival della scienza, della matematica, che in Italia stanno riscuotendo moltissimo successo. Il carnevale della fisica in questo caso, come anche il carnevale della matematica che è già da un anno e mezzo che in Italia sta coinvolgendo i blogger, è un'iniziativa che è nata proprio per diffondere e divulgare la scienza e in particolare la fisica della Terra e dello spazio. Si è ispirato come modello ai Carnival of Mathematics che nei paesi anglosassoni sono ormai un'istituzione. Non ha nulla a che vedere con il carnevale in maschera, è un appuntamento che ogni mese, in questo caso il 30 di ogni mese, si darà appuntamento a tutti i blogger, in questo caso, che potranno scrivere degli articoli e pubblicarli, e a turno ogni blog pubblicherà tutti gli interventi dei vari appassionati, fisici, ricercatori, che racconteranno così le loro esperienze e cercheranno di divulgare la scienza al grande pubblico. È un modo per avvicinare il grande pubblico alla scienza. Claudio, ci lasciamo con queste parole, andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, torniamo in studio e poi continuiamo a parlare di questo carnevale della fisica. Tomorrow morning, tomorrow morning, Claudio, siamo ritornati in studio e quindi cominciamo a parlare di questa iniziativa, un'iniziativa che è uscita peraltro proprio ieri, quindi un'iniziativa fresca fresca. Cerchiamo di capire come è nata, quindi qual è stata l'idea iniziale che ha fatto nascere questo carnevale? Allora, innanzitutto dobbiamo dire che l'idea è nata congiuntamente tra due paesi europei, due blog in particolare. Uno è Gravità Zero, che qua in Italia è un blog ormai conosciuto per la sua attività di divulgazione, e il suo omologo Gravedad Zero, che in Spagna è diretto da due colleghi, due astrofisici tra l'altro, fanno ricerca all'Università di Barcellona, Carlo Ferri, e all'Università di Madrid, Roy Oliva, che tra l'altro lavora all'ESA. Quindi, come dire, sono dei blog di eccezione che danno una spinta iniziale notevole, ma al carnevale possono partecipare, come avete visto, come avrete visto sul sito, tantissimi blogger che possono essere docenti di fisica, appassionati, persone che hanno comunque qualcosa da raccontare, non necessariamente legati alla scienza fisica, ma per esempio anche raccontando la storia, le biografie dei protagonisti, spettacoli teatrali che riguardano la fisica, musica, perché tra l'altro tra i fisici ci sono anche molti appassionati di musica. Claudio, visto che può darsi che qualcuno non lo conosca, do un attimo l'indirizzo internet di Gravità Zero, che è www.gravita-zero.org ed è il primo corporate blog italiano, e peraltro tu sei il fondatore di questo corporate blog, che ormai è diventato una specie di punto di riferimento per la scienza in rete. Cerchiamo di capire però chi partecipa a questo carnevale e come è strutturato tutto quanto. Sì, intanto devo dire che il tutto nasce anche grazie a un'idea che era partita a Maurizio Codogno, che è un matematico, che più di un anno e mezzo fa aveva fatto partire in Italia il Carnevale della Matematica. Dietro questa esperienza, alla quale tra l'altro partecipano molti fisici, blogger fisici, quindi che scrivono di matematica ma hanno un'estrazione fisica, abbiamo pensato di far partire anche questo tipo di esperienza. Abbiamo coinvolto quindi moltissimi blogger, e tra questi ricordo dei nostri affezionati partecipanti, che sono ad esempio il blog di Scientificando di Anna Rita Ruberto, oppure Science Backstage di Blogosfere di Gianluigi Filippelli, e poi voglio ricordare i Rudi Matematici, che scrivono anche per la rivista Le Scienze e che, a dispetto del loro nome, hanno un'estrazione fisica. Infatti Rudi D'Alembert e Piotr Siderbrands sono in realtà di estrazione fisica, hanno studiato fisica all'Università di Torino, e Alice Riddle invece è ingegnere di formazione e lavora come ingegnere. Quindi in realtà abbiamo dei grandissimi come dire, partecipanti fisici e grandissimi competenti. Tu peraltro hai citato Rudi Matematici, e sai che i Rudi Matematici sono particolarmente affezionati a Cacciafotone. Abbiamo dedicato la puntata 100 a Rudi Matematici, che ormai sono diventati una specie di portafortuna per questa trasmissione. Una delle tante cose del carnevale è l'utilità di questo carnevale per unire più blog scientifici. Ci vorresti parlare un attimo dell'importanza di unire varie risorse disperse in altro modo nella rete? Fare da collettore è molto importante, perché in rete spesso le informazioni si disperdono, è difficile anche trovarle. Google è uno strumento sicuramente utilissimo, ma spesso i piccoli blog non hanno la possibilità e le capacità di emergere, proprio perché c'è veramente un mare di informazione. Allora, creare un aggregatore, in questo caso noi abbiamo creato un portale su Ning, che è aperto a tutti, cioè tutti possono postare, possono mettere i loro contenuti, contributi e fare pubblicità quindi al proprio blog, nel senso divulgativo del termine. Creare un'aggregazione ogni mese di centinaia di blogger, non solo in Italia ma anche in Spagna, dove sta avendo un'enorme eco mediatica, questo significa creare, aumentare la visibilità della divulgazione della scienza in maniera esponenziale, perché 100 blog sono come dire molto più della somma di ogni blog dal punto di vista della visibilità. Peraltro forse non è chiaro a molti dei nostri radioascoltatori, ma in realtà di scienza in rete se ne parla veramente tanto, e se non ci fossero queste iniziative come i carnevali, probabilmente molti di noi o molti dei nostri radioascoltatori non saprebbero che alcuni blog esistono. In realtà ci sono dei blog dedicati alla matematica, dei blog dedicati alla fisica, dei blog dedicati alla biologia, alla microbiologia, ci sono veramente una marea di risorse in rete, quindi l'unione di queste risorse in un'unica che faccia da collettore e forse l'importanza di questi carnevali. Una delle riviste più importanti della scienza moderna, quindi Wired, ha citato il carnevale. Ce ne puoi parlare, perché questa è una cosa molto importante che ha dato lustro a questo carnevale nuovo. Sì, Wired, devo dire, ci ha fatto un enorme piacere, e soprattutto la risposta è stata tempestiva. Io ho scritto alla redazione praticamente prima che iniziasse, avevamo appena preparato il comunicato stampa. 30 secondi dopo la mia email mi è arrivata una risposta direttamente dalla Condé Nast di Londra, da parte appunto della loro redazione, che si dimostravano entusiasti dell'iniziativa. Naturalmente avevano capito la portata dell'evento, perché neanche pochi giorni dopo saremmo stati addirittura sul sito del Anno Internazionale dell'Astronomia del Nodo Spagnolo, in prima pagina, un evento praticamente patrocinato dall'ONU e dall'UNESCO. Quindi il fatto che Wired, una delle riviste più prestigiose per quanto riguarda l'innovazione tecnologica e la scienza, ci abbia preso in considerazione, significa veramente che c'è una passione comune nella divulgazione della scienza, e soprattutto anche un'intuizione da parte di questa grande rivista di andare al di sopra e al di là di quelle che sono delle iniziative locali. Significa proprio che stiamo facendo innovazione. Claudio, per tutti i blogger scientifici che volessero partecipare a questa iniziativa, puoi dare l'indirizzo del Carnevale della Fisica su Ning? Sì, l'avevo anticipato prima, ma lo do molto volentieri. Carnevale della Fisica, scritto tutto di seguito, .ning.com. Comunque, scrivendo Carnevale della Fisica su Google, tranquillamente è in prima pagina, si riesce a raggiungere con facilità. Tra l'altro, anche dall'articolo di Wired è possibile raggiungere direttamente il link del carnevale e dei due blog fondatori. Devo dire che questa iniziativa ha fatto in modo che in pochissime settimane Google indicizzasse immediatamente tutti i blog partecipanti, quindi un invito veramente a tutti i blogger che sono appassionati di scienza come noi di partecipare e di iscriverci per unirsi al carnevale, che proseguirà ruotando e diventando ospite di ognuno dei blogger che parteciperanno. Peraltro non abbiamo citato un'associazione molto importante, che è l'Unione Astrofili Italiani, che ha partecipato entusiasta a questo carnevale. Per la prima volta ha partecipato a un corporate scientific information che sta andando in rete. Esattamente, devo anzi ringraziare l'associazione che è una, se non la più importante associazione di astrofili italiana, che ha partecipato con grande entusiasmo fin dall'inizio, in particolare con il suo presidente Emilio Sassone Corsi, che ha subito dato la disponibilità, ne ha parlato ovviamente con il direttivo, ha dato la sua disponibilità a partecipare, e adesso anche lui con noi è sulle prime pagine delle grandi testate internazionali che parlano di astronomia, di fisica e di scienza. Questo è un grandissimo successo, per noi è una soddisfazione perché significa che con pochi mezzi, perché veramente noi non abbiamo grandi investimenti alle spalle, abbiamo la nostra passione che ci porta avanti, riusciamo a divulgare e a essere di più visibili di moltissime altre testate di riferimento che hanno, ahimè, molte più disponibilità di noi. Claudio, ci lasciamo così, adesso ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, torniamo in studio e poi al nostro ritorno parleremo con Carlo Ferri di Gravedad Zero. Ciao Claudio, grazie. Grazie a voi. Bentornati in studio, cari radioascoltatori, in questa puntata in cui stiamo provando a parlare del Carnevale della Fisica, che è una manifestazione che si sta svolgendo via web, una manifestazione che cerca di unire varie risorse scientifiche disperse in rete. Abbiamo appena sentito Claudio Pasqua di Gravità Zero italiano e in questo momento invece siamo in collegamento via Skype direttamente con la Spagna e abbiamo in collegamento VoIP Carlo Ferri, cofondatore di Gravedad Zero. Buongiorno Carlo. Buongiorno a tutti. Carlo, come sta reagendo la Spagna a questa iniziativa? Peraltro Gravedad Zero è uno dei due blog che hanno fondato tutta l'iniziativa del Carnevale della Fisica. Ma direi che sta reagendo molto bene. All'inizio c'è stata un po', hanno reagito in modo un po' timido, nel senso che ci sono stati pochi partecipanti. La prima settimana eravamo appena in 7, Poi però piano piano la cosa ha iniziato a prendere forma, e anche grazie ai media che ci hanno aiutato a fare un po' di propaganda sia sul web ma anche sulla carta stampata, piano piano ci sono state più adesioni a questa iniziativa, e adesso già contiamo con quasi una trentina di partecipanti, e la notizia è apparsa sulla homepage del nuovo spagnolo dell'anno internazionale dell'astronomia, e in realtà proprio durante tutto il giorno ho ricevuto nuove adesioni, quindi diciamo che siamo abbastanza soddisfatti della risposta dei blogger spagnoli. Senti Carlo, ti voglio fare una domanda, perché in realtà questa iniziativa nasce dall'idea di due blog presenti in due paesi diversi, quindi Italia con Gravità Zero e la Spagna con il tuo Gravedad Zero. Ora, come giudicheresti la Spagna nei confronti dell'Italia? È sempre brutto certo fare confronti, però l'Italia diciamo che è un paese che ha una grossa tradizione di divulgazione scientifica, non fosse altro che pieno di festival della scienza, quindi la Spagna nei confronti dell'Italia come la giudicheresti? Ma devo dire che io mi trovo in una fase, in un momento particolare per la Spagna, perché la Spagna negli ultimi anni c'erano molti fondi a disposizione della ricerca, quindi molti investimenti e quindi anche disponibilità di soldi di finanziamenti per fare divulgazione scientifica. E quindi diciamo che anche i giornali, anche la stampa ha dedicato sempre di più diciamo spazio alla divulgazione e alla comunicazione scientifica. Diciamo che la differenza con l'Italia io la noto abbastanza, perché se magari adesso per esempio iniziano a nascere adesso i primi programmi in televisione o i primi documentari, invece in Italia ci sono trasmissioni che hanno invece più tradizione. Però diciamo insomma che la cosa va abbastanza bene, e io mi trovo in questa fase importante, in realtà insomma mi sto anche divertendo molto, perché è interessante vedere come vanno avanti le cose. Senti Carlo, una domanda semplice e diretta: come nasce effettivamente questa joint venture fra Gravità Zero e Gravedad Zero? Ma diciamo che è nata un po' per casualità. Io ho fondato qui insieme al mio collega Roy Oliva, che è in forza adesso all'Agenzia Spaziale Europea a Madrid, e avevamo iniziato il dottorato insieme. Poi lui ha scelto la carriera più spaziale, ha trovato insomma un posto di lavoro nell'agenzia europea. Ed entrambi condividevamo la passione per la divulgazione e per la comunicazione scientifica, e quindi abbiamo deciso insomma di fondare questo blog. E in realtà il blog non ha neanche un anno di vita, perché è nato a marzo, però dobbiamo dire che siamo abbastanza soddisfatti dei risultati che abbiamo ottenuto fino adesso. E poi io un po' così perdendo tempo su Google ho iniziato a cercare un po' altri mezzi di comunicazione che altri portali soprattutto che facessero divulgazione scientifica, e mi sono trovato con questo Gravità Zero che non conoscevo ancora, e per curiosità appunto, per omonimia anche, e sono andato a fare un po' di ricerca, a vedere di cosa si trattava, e realmente era molto interessante. Quindi mi sono messo in contatto con Claudio Pasqua, che è il responsabile di Gravità Zero, e sin dall'inizio c'è stato un grande feeling, e abbiamo avuto un sacco di idee che appunto piano piano hanno iniziato a prendere forma. E una di queste idee, uno di questi progetti è appunto il Carnevale della Fisica. Io ero stato invitato da Claudio a partecipare al Carnevale della Matematica che lui aveva accolto sul blog di Gravità Zero, poi sono entrato a far parte anch'io della redazione di Gravità Zero, e appunto poi noi qui in Spagna abbiamo avuto questa idea: perché non fare un Carnevale della Fisica? C'era il Carnevale della Matematica, però siamo fisici, facciamo il Carnevale della Fisica. E sapevo che potevo contare con l'appoggio di Claudio, infatti è stato disponibilissimo dall'inizio. E quindi insomma poi la cosa ha iniziato a prendere forma in modo parallelo, quindi noi in Italia, noi in Spagna scusa, e loro in Italia, e niente, poi abbiamo insomma iniziato anche a cercare altri collaboratori, abbiamo ottenuto il patrocinio dell'Unione Astrofili Italiani, e piano piano insomma abbiamo messo su questa iniziativa. Abbiamo scelto la data del 30 novembre del 2009, perché è il momento più importante di questo anno 2009, perché proprio 400 anni fa Galileo osservò per la prima volta l'oggetto celeste più brillante del firmamento, la Luna, e quindi volevamo celebrare questo grande giorno con un evento che fosse giocoso per quanto riguarda il nome del carnevale della fisica, però allo stesso tempo interessante, qualcosa che apportasse qualcosa di nuovo al pubblico. Senti Carlo, occupandomi mai di divulgazione da qualche annetto, mi sono seguito, diciamo, l'evoluzione della divulgazione scientifica con l'evoluzione del web. Un tempo c'era il web 1.0 con la possibilità di scaricare le immagini dal sito della NASA in almeno un giorno e mezzo, e ora invece è integrato tutto nel 2.0 con video, immagini, possibilità di iscriversi a Facebook, a gruppi mirati di divulgazione scientifica, immagini tramite Flickr, eccetera eccetera. Come pensi che realmente il 2.0 stia aiutando la diffusione della scienza? È meglio di prima o più o meno siamo agli stessi livelli di prima? Ma io penso che il web 2.0 ha un potenziale enorme. E sinceramente anch'io sto tuttora scoprendo tutto il potenziale che può mettere a disposizione di noi divulgatori. E penso che sia molto importante perché soprattutto è uno strumento accessibile a tutti quanti, perché oggigiorno tutto il mondo ha, diciamo, il mondo occidentale ha l'accesso a internet, quindi è una cosa facile da ottenere. Montare un blog, aprire un blog è la cosa più semplice del mondo oggigiorno, soprattutto per i più giovani, e allo stesso tempo è uno strumento low cost. E penso che appunto c'è uno strumento molto importante perché permette realmente di fare buona divulgazione scientifica. Questo vuol dire che realmente persone che sono dentro dell'ambiente universitario, nell'ambito della ricerca, possono avvicinarsi al grande pubblico e fare quindi in modo che la distanza tra la scienza e il grande pubblico si riduca sempre di più. Quindi la scienza, che sempre viene vista dal grande pubblico come qualcosa di misterioso, a volte anche, no, la gente ha paura della scienza. Invece attraverso i blog, attraverso, non so, anche altri portali, la possibilità di facile accessibilità alla scienza, penso che sia un aspetto molto, molto interessante del web 2.0. Carlo, ti voglio fare l'ultima domanda prima di salutare i nostri radioascoltatori. Senti, che ci fai in Spagna? Hai vinto un PhD? Stai lavorando come ricercatore? Sei andato lì solamente per fare divulgazione scientifica? Insomma, perché hai scelto la Spagna in luogo dell'Italia? Dunque, Spagna, vabbè, sono venuto qui perché io durante la mia carriera universitaria volevo fare un'esperienza all'estero, e ho vinto una borsa di studio all'Università di Bologna per fare la tesi all'Istituto di Astrofisica de Canarias, che è a Tenerife, in Isole Canarie. Lì ho svolto il mio lavoro, sono stato 6 mesi lì, quindi lì ho imparato anche un po' la lingua spagnola e insomma mi sono anche un po' innamorato di questa cultura latina molto simile alla nostra. E niente, una volta terminata la tesi, comunque l'ho presentata all'Università di Bologna, e ho iniziato a cercare un posto per svolgere un'attività di ricerca, però c'era sempre questo desiderio di andare all'estero, di evadere un po', di cambiare aria, e visto appunto che conoscevo anche un po' l'ambiente spagnolo, ho anche focalizzato le mie ricerche in Spagna, e appunto quando sono arrivato io nel 2005, come dicevo prima, la Spagna viveva un buon momento a livello economico, quindi c'erano anche molte risorse per la ricerca, e ho chiesto una borsa di studio, me l'hanno assegnata, quindi grazie a quella borsa di studio ho potuto insomma svolgere questo percorso di PhD, il dottorato, e niente, e sono qui adesso, spero di presentare presto la mia tesi di dottorato e finirlo più presto possibile. Carlo, con questa tua risposta ci conclude la nostra puntata speciale sul Carnevale della Fisica, quindi ti ringrazio per la pazienza con cui hai voluto rispondere alle nostre domande. ci salutiamo quindi qui. L'appuntamento è, come al solito, sabato prossimo, stessa ora, stessa radio e stesso fotone. E come al solito l'augurio di una buona scienza a tutti, e in questo caso di un buon carnevale della fisica a tutti.